bambina innamorata, stanotte l'ho sognata, sul cuore addormentata, sorridevi tu. Bambina innamorata, la bocca t'ho baciata, quel bacio ti ha destata, non lo scordare più. M'hai detto t'amo, voglio il tuo amor. Risposi t'amo, con tutto il cuore. Bambina innamorata, stanotte t'ho sognata, sul cuore addormentata, e sorridevi tu. Prima rosa, se tremante io ti parlo del mio amore, tu mi guardi e mi sorridi maliziosa, ma forse ti batte il cuore. Prima rosa, più gentile e delicata d'un bel fiore, vorrei dirti ciò che il labbro mai non osa, io vivo per questo amore. Sul cuore addormentata e sorridevi tu.